Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. L'utilizzo della mascherina non ci rende invincibili. Cioè ci sono delle misure, il distanziamento sociale e l'igiene delle mani, di sicura efficacia. Per gli operatori sanitari è uno strumento di difesa giusto e indispensabile. Per chi vive, diciamo, in un ambiente non professionale e quindi non è professionalmente esposto al virus, può rappresentare, secondo me, un valido baluardo di difesa, non deve certamente rappresentare uno strumento per abbassare la guardia su quelle misure che abbiamo visto dai numeri sono efficaci. Così ha parlato oggi in conferenza stampa, la conferenza stampa della Protezione Civile, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, e Luca Richeli, che fa parte, membro del comitato tecnico scientifico, che cerca di dare indicazioni al governo per poi prendere decisioni politiche, appunto, sulle mascherine. Cioè ancora è molto aperto questo dibattito sulle mascherine. Sapete che intanto già da oggi Lombardia e Regione Lombardia e Regione Toscana le hanno rese obbligatorie per i cittadini comuni che escono di casa o per andare al lavoro, per andare a fare la spesa, e poco fa, vedo da pochi istanti fa, un aggiornamento di agenzia che dice che anche in Alto Adige scatta l'obbligo della mascherina. Però nel contempo l'OMS oggi di nuovo è intervenuto all'Organizzazione Mondiale della Sanità a dire: ma in realtà siamo, dice, piuttosto scettici sulle mascherine di massa, perché in realtà il vero strumento efficace per la prevenzione resta il distanziamento sociale. Insomma, ne parleremo con un grande esperto, il virologo Fabrizio Pregliasco, per vedere di fare un po' di chiarezza su questo tema che ancora è molto aperto. Poi, importantissima naturalmente, è ancora in corso la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte con i ministri dell'Economia Gualtieri, dello Sviluppo Economico Patuanelli e della Ministra dell'Istruzione Azzolina sui due decreti che oggi ha approvato il Consiglio dei Ministri. Uno è il decreto liquidità, per dare appunto liquidità alle imprese, affrontare l'impatto economico; l'altro invece che riguarda la scuola, come deve finire questo anno scolastico. Parleremo di tutte queste cose. 349-238-6666, ve lo ricordo, il numero per i vostri sms WhatsApp, se volete commentare, fare domande, 349-238-6666, o se no pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte. Nel frattempo vedo che continua a divampare la polemica tra governo e Regione Lombardia sulle mancate zone rosse ad Alzano Lombardo e Nembro, nella provincia bergamasca, da dove poi veramente è partita praticamente una... insomma, quasi praticamente una strage. A proposito, sapete cosa è successo nella provincia di Bergamo. Quindi, tra pochissimo i vari ospiti, ma prima di tutto, come sempre, sintesi della giornata. I numeri del coronavirus in Italia: scendono i contagi, diminuiscono le persone in terapia intensiva, ma cresce il numero dei morti, 636 nelle ultime ore. Migliora la situazione in Lombardia, ma si accende la polemica tra il governo e la regione sulla mancata chiusura di Alzano e Nembro. Le misure per l'impatto economico: accordo nel governo sulla liquidità alle imprese, in arrivo 750 miliardi di euro complessivi. È una potenza di fuoco, sottolinea Conte. Il decreto sulla scuola: se non si torna in classe entro il 18 maggio, maturità online e niente esami di terza media. Tutti promossi, ma a settembre i recuperi delle insufficienze. Il monitor dell'OMS: le mascherine devono essere usate nell'ambito di altre misure, da sole non fermano la pandemia. Calcio: Serie A unita sul taglio degli stipendi, meno 30% se non riprende il campionato, ma l'associazione dei calciatori boccia la Lega e dice: vergogna, vogliono far pagare soltanto noi. Partiamo quindi dai dati relativi al coronavirus in Italia. Sono complessivamente 93.187 i malati, con un incremento rispetto a ieri di 1.941. Il numero complessivo dei contagiati in Italia, comprese le vittime e i guariti, è di 132.547, il dato come sempre fornito durante la conferenza stampa della Protezione Civile. Sono 16.523 le vittime, con un aumento rispetto a ieri di 636, domenica l'aumento era stato di 525. Calano ancora i malati di coronavirus ricoverati nelle terapie intensive: sono 3.898 i pazienti nei reparti, 79 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.343 sono in Lombardia. Dei 93.187 malati complessivi, 28.976 sono poi ricoverati con sintomi, 27 in più rispetto a ieri, e 60.313 sono quelli in isolamento domiciliare. Sentiamo Luca Richeli a proposito del comitato scientifico, tecnico scientifico, che è consulente del governo, sul fatto di non ridurre il livello dell'allarme. questi dati sono dati confortanti, sono gli effetti di contenimento che vediamo dalle misure che sono state implementate qualche settimana fa. L'avere riscontrato questo effetto ovviamente ci deve rafforzare ancora di più nel mantenimento di queste misure. Le decisioni dopo il 13 aprile saranno decisioni prese a livello politico, ma credo che abbiamo sotto gli occhi tutti noi il risultato dei nostri sforzi quotidiani. E sempre Luca Richeli sull'uso appunto delle mascherine. L'utilizzo della mascherina non ci rende invincibili, cioè ci sono delle misure, il distanziamento sociale e l'igiene delle mani, di sicura efficacia. Per gli operatori sanitari è uno strumento di difesa giusto e indispensabile. Per chi vive, diciamo, in un ambiente non professionale e quindi non è professionalmente esposto al virus, può rappresentare, secondo me, un valido baluardo di difesa, non deve certamente rappresentare uno strumento per abbassare la guardia su quelle misure che abbiamo visto dai numeri sono efficaci. E c'è stato il via alla distribuzione agli ordini dei medici della prima tranche di 620.000 mascherine FFP2 su un totale di 1 milione. Intanto, come sapete, è scattato l'obbligo di indossare le mascherine fuori casa in Lombardia, firmata l'ordinanza anche in Toscana. Anche le Marche stanno operando in questo senso, poco fa anche l'Alto Adige. Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità si dice preoccupata: l'uso di massa delle mascherine potrebbe aggravare la carenza di questi strumenti per malati e personale sanitario. Le mascherine da sole, avverte l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non fermano la pandemia. E poi deve essere preso in considerazione l'uso delle mascherine generalizzato, dice sempre l'OMS, in quei paesi nei quali altre misure, come lavarsi le mani o mantenere la distanza, sono più difficili da applicare per carenza d'acqua o in condizioni di sovraffollamento. In Toscana sono partiti i camion per distribuire gratis 10 milioni di mascherine porta a porta. Una volta che le avranno tutti, scatterà l'obbligo di indossarle. In Lombardia sono obbligatorie da ieri. Oggi la Protezione Civile ha iniziato a distribuirne 3 milioni, le prime gratuite, poi saranno a pagamento. Per ora solo l'azienda Fippi di Rho ha ottenuto l'ok dall'Istituto Superiore di Sanità a produrre 900.000 mascherine. Altre sono in attesa. Ci hanno contattato 500 imprese, ci spiega l'assessore all'ambiente e clima della Lombardia Raffaele Cattaneo. Su parecchie centinaia sono solo una decina quelle che ci hanno mandato campioni con dei materiali idonei. Il problema è che sul mercato internazionale è tutto bloccato, i materiali ordinati non vengono consegnati, restano alle frontiere o nei paesi di origine. Per questo la Lombardia ha attivato una filiera locale, tra gli obiettivi calmierare i prezzi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'OMS poi ha fatto sapere che fornirà ai paesi dei parametri precisi da applicare per uscire dal lockdown, cioè dalla chiusura totale, e avviare la fase 2. Lo ha annunciato il dottor Mike Ryan nella consueta conferenza stampa dell'OMS sul coronavirus. Poi appunto ci illuminerà il professor Pregliasco. Borrelli, capo della Protezione Civile, oggi, fra le altre cose, in conferenza stampa ha parlato anche dell'istituzione di un fondo per i familiari dei sanitari morti. Nella serata di ieri ho firmato un'ordinanza di Protezione Civile che prevede l'istituzione di un fondo per destinare provvidenze nei confronti dei familiari, dei sanitari che sono deceduti durante questa emergenza. Si tratta di un fondo che è alimentato dalla famiglia Della Valle, voglio ringraziare il dottor Diego Della Valle che si è fatto promotore di questa iniziativa che noi abbiamo prontamente condiviso e che porteremo avanti nei confronti di tutti coloro i quali sono rimasti orfani e sono rimasti senza un proprio familiare che era impegnato nelle attività sanitarie in favore della popolazione. Vi dicevo di due importanti decreti del Consiglio dei Ministri varati e presentati pochi istanti fa, ancora quando è iniziata effetto notte, era in corso la conferenza stampa. Sentiamo un passaggio di Conte sul decreto liquidità appunto a favore delle imprese. Con il decreto appena approvato diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, che siano piccole, medie, grandi. 200 miliardi per il mercato interno, finanziamento del mercato interno, altri 200 miliardi per potenziare il mercato dell'export. È una potenza di fuoco. Io non ricordo effettivamente un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica a favore per il finanziamento delle imprese. E poi sentiremo anche gli altri passaggi su questo decreto così importante, mentre intanto, vi dicevo, divampa la polemica tra governo e regione Lombardia sulla mancata chiusura di due zone che poi si sono rivelate zone con grandi focolai e che poi, nelle quali ci sono state molte vittime. Nella Bergamasca, Alzano Lombardo e Nembro, Conte ha detto, a proposito di una domanda su questo argomento ai giornalisti, ha detto: rispondere alle domande sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro non l'ho fatto per polemica, non voglio ricercare le responsabilità di altri, ho bisogno della collaborazione di tutti i governatori e sindaci. Mi è stato chiesto se il governatore della Lombardia poteva assumere ordinanze più restrittive, abbiamo risposto che non abbiamo impedito di farlo, lo hanno fatto altri governatori, non voglio imputare o scaricare responsabilità. E poi la Regione Lombardia ha risposto poco dopo: a fronte della mappatura della diffusione del contagio, la Regione Lombardia il 3 marzo ha reiterato fra le altre la richiesta di istituire una zona rossa per Nembro e Alzano attraverso il Comitato Tecnico Scientifico di supporto a Palazzo Chigi, che condivideva tale valutazione inoltrandola al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Sanità. Insomma, quindi continua il botta e risposta su di chi sono le responsabilità in questo senso. E per quanto riguarda invece la scuola, il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al decreto che contiene importanti novità. Se non si tornerà in classe entro il 18 maggio, come sembra ormai altamente probabile, salterà l'esame di terza media, che verrà sostituito con una valutazione del consiglio di classe. Salterebbe anche l'esame tradizionale della maturità, ci sarà, ma sarebbe un'interrogazione orale online. Gli alunni di tutte le altre classi verrebbero tutti promossi, saranno assunti 4.500 professori che andranno a coprire i posti resi vacanti da quota 100. Ma sentiamo poco fa la ministra dell'istruzione Azzolina. Pertanto abbiamo pensato due possibili opzioni che permetteranno di fare degli esami ai nostri studenti secondo i reali apprendimenti che hanno raggiunto anche grazie al lavoro che hanno fatto sulla didattica a distanza. Abbiamo messo l'anno in sicurezza. Ci tengo a sottolineare che non si possa assolutamente parlare di sei politico. Sono categorie storiche vetuste per certi versi. La valutazione di uno studente non è legata ad un freddo voto numerico, ma la valutazione ci serve a far sì che si guardi all'identità personale dello studente, alla crescita, alla maturazione di uno studente che in questo caso guarda ad un periodo complessivo che è di ben 5 anni. C'è l'accordo tra Poste e Carabinieri, i quali porteranno a casa, i Carabinieri, la pensione a 23.000 ultra 75enni, che così non dovranno mettersi in fila negli uffici postali per tutto il tempo in cui perdurerà l'emergenza coronavirus. Contagi che frenano quindi in Italia, anche se i numeri rimangono comunque allarmanti, emergenza che non si ferma nel mondo. Nel mondo ormai sono più di 70.000 le persone morte per coronavirus, 50.000 nella sola Europa e i contagiati superano il 1.200.000. Ma uno spiraglio arriva dalla Spagna, che ha registrato il numero minimo di decessi, 637, dal 24 marzo scorso. I casi nel paese nelle ultime 24 ore sono stati 4.300, meno degli oltre 6.000 del giorno precedente. In Germania, secondo calcoli americani, sono 1.500 le vittime, più di 110.000 contagi, mentre il tedesco Robert Koch Institute li ferma a 95.000. Ottimista, l'Austria annuncia che riaprirà a tappe gli esercizi commerciali a partire da dopo Pasqua. Nel Regno Unito Boris Johnson ha trascorso una notte tranquilla in ospedale, dove si trova per esami di routine, fa sapere il premier britannico via Twitter, mentre un suo portavoce conferma che è di buon umore e resta alla guida del governo. Sono fiducioso che Boris Johnson si rimetterà presto, l'augurio di Donald Trump, il cui paese ha registrato la morte di altre 1.200 persone, portando il totale delle vittime a oltre 10.000. Negli USA i casi, 320.000, sono oltre il doppio di Spagna Italia e 4 volte quelli della Cina, ma per il presidente Trump si vede la luce in fondo al tunnel. Il picco, afferma, ci sarà nei prossimi giorni. E l'emergenza, anche se non un lockdown completo, scatta anche in Giappone. Le misure resteranno attive in 7 prefetture fino a 6 maggio. Da Wuhan, città epicentro della pandemia, una bella notizia: oltre il 90% delle imprese ha ripreso le attività. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Gli Stati Uniti designano per la prima volta un gruppo di suprematisti bianchi, il Russian Imperial Movement, come un'organizzazione terroristica e senza precedenti stiamo prendendo misure che nessuna precedente amministrazione ha mai preso per combattere questo tipo di minaccia, afferma l'ambasciatore Nathan Sales, coordinatore antiterrorismo del Dipartimento di Stato. Secondo gli Stati Uniti, il gruppo russo, che ha due campi di addestramento a San Pietroburgo, offre una formazione stile paramilitare ai neonazisti. E per quanto riguarda Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, che sapete è stato arrestato in Egitto, un nuovo rinvio di una settimana a causa del coronavirus per l'udienza in cui oggi doveva essere deciso se prolungare o meno di altri 15 giorni la custodia cautelare di Patrick George Zaki, che è da 2 mesi detenuto in Egitto, al momento al Cairo con l'accusa di propaganda sovversiva, lo ha riferito un suo legale Amnesty, molto preoccupata. Amnesty Italia dice insomma che praticamente Patrick è ostaggio di questa situazione. Parliamo delle borse. Bene, oggi le borse europee in un quadro economico però difficilissimo. Sono oltre 10 milioni i lavoratori colpiti dalle conseguenze della crisi economica causata dal coronavirus, secondo la Confederazione Europea dei Sindacati, che chiede all'Eurogruppo di domani, ci sarà domani, di trovare un'intesa sul pacchetto di interventi, fra cui l'emissione di Eurobond per sostenere la ripresa. E proprio su questo la Francia insiste per inserire la sua proposta in un fondo temporaneo ed eccezionale di solidarietà per mutualizzare i debiti futuri in risposta alla crisi del coronavirus. Vogliamo che questa proposta sia nel pacchetto iniziale europeo, altrimenti non daremo l'assenso al pacchetto globale, fa sapere la Francia. Poi ne parleremo. E per quanto riguarda lo sport, invece, sono i calciatori, l'associazione calciatori sul piede di guerra, perché la Lega dice d'accordo per il taglio degli stipendi meno 30% se non riprende il campionato, ma i calciatori dicono, l'associazione, il sindacato insomma, vergogna, vogliono far pagare soltanto noi. Un po' di musica. Che dice grazie all'OMS, era oggi collegata in videoconferenza con l'OMS, dice per la sua leadership nella lotta contro il Covid-19, ringrazia l'Organizzazione Mondiale della Sanità e tutti gli operatori sanitari negli Stati Uniti e nel resto del mondo, dice Lady Gaga, il mio cuore con tutti i medici. Ha detto la pop star presentando l'iniziativa Together at Home, il mega concerto virtuale che si terrà il 18 aprile con grandi personaggi internazionali della musica e dello spettacolo. Vedo un'agenzia di pochi istanti fa a proposito delle condizioni di salute del primo ministro britannico Boris Johnson. Sapete che si erano inseguite varie voci, sta male, no? In realtà è semplicemente passato in ospedale per un controllo, in terapia intensiva no. Adesso una giornalista della BBC su Twitter dice Johnson è in terapia intensiva. Poi man mano ci sono degli aggiornamenti, sono qui per voi, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi subito da voi, Roberta Giordano, naturalmente sempre in vostra compagnia dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22 per a quest'ora darvi tutta l'informazione possibile sulle cose più importanti dall'Italia e dall'estero e poi anche per cercare insieme di capire meglio quello che sta succedendo. Dico sempre una trasmissione antivirus se volete, perché più ascoltate Effetto Notte, più vi informate, più evitate il virus. Vi dicevo di una notizia di pochi istanti fa a proposito di Boris Johnson, il primo ministro britannico. Tante voci si erano rincorse tra ieri e oggi sulle sue condizioni di salute. Adesso una giornalista della BBC ha twittato che si trova Johnson in terapia intensiva. Vediamo, c'è un ulteriore aggiornamento qui. Dice il premier britannico Boris Johnson, affetto da coronavirus, è stato trasferito in terapia intensiva dopo che questo pomeriggio le sue condizioni sono peggiorate. Lo fa sapere un portavoce di Downing Street, quindi della sede del primo ministro, secondo quanto riportato da media britannici. Vi ricordate che più volte è stato criticato Boris Johnson perché fino all'ultimo, un po' come Trump, molto sottovalutato quello che stava succedendo, dicendo prima che tutti si dovevano aspettare, le famiglie, di avere qualche morto perché bisognava raggiungere l'immunità di gregge, e poi invece si è reso conto un po' tardi insomma che la situazione era molto grave. Vi ricordo per i vostri messaggi pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666, numero per SMS e WhatsApp. C'è per esempio questa ascoltatrice che dice a proposito della situazione attuale anche in Italia. Vediamo se lo ritrovo. Il dato più drammatico riguarda però il numero dei morti. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 636 vittime, come dicevo, quindi 111 in più rispetto ai 525 della giornata di ieri. Abbiamo detto infatti che purtroppo per i morti non c'è una gran decrescita. L'utilizzo della mascherina non ci rende invincibili. Cioè ci sono delle misure, il distanziamento sociale e l'igiene delle mani, di sicura efficacia. Per gli operatori sanitari è uno strumento di difesa giusto e indispensabile. Per chi vive, diciamo, in un ambiente non professionale e quindi non è professionalmente esposto al virus, può rappresentare, secondo me, un valido baluardo di difesa, non deve certamente rappresentare uno strumento per abbassare la guardia su quelle misure che abbiamo visto dai numeri sono efficaci. Probabilmente la dovremmo usare nei posti in cui non sarà possibile distanziamento sociale o in cui il distanziamento sociale è molto problematico. Mi sembra abbastanza improbabile prevedere un uso universale 24 ore al giorno della mascherina. E ve l'ho fatto sentire in parte all'inizio, adesso in modo più completo, Luca Richeli, che è un membro del comitato tecnico-scientifico consulente sul coronavirus per il governo, che è tornato su questa questione, questo dibattito ancora molto aperto sull'obbligo o meno delle mascherine, sull'utilità delle mascherine per combattere, per prevenire il coronavirus. Sapete che da oggi è scattato l'obbligo per i comuni cittadini, appena mettono il naso fuori di casa, sia in Lombardia che in Toscana, di mettere la mascherina, anche se ieri il sindaco Sala, sindaco di Milano, diceva sì, l'ordinanza io naturalmente la rispetto della regione Lombardia, però è anche vero che forse prima bisognerebbe che le farmacie potessero davvero essere in grado di dare e di vendere queste mascherine e poi magari passare all'obbligo. E così è successo in Toscana con il presidente Rossi, lo sentiamo, che dice che le distribuirà porta a porta. È in corso la distribuzione di 8 milioni e mezzo di mascherine monouso FFP1, equivalente alle mascherine chirurgiche, a tutti i cittadini della Toscana. Le abbiamo mandate, sono partite stamani ai comuni, ai sindaci, affinché le distribuiscano casa per casa, direttamente al cittadino, evitando assembramenti, evitando anche fenomeni di dispersione, che non sarebbe certo il caso di avere in una situazione come questa. Noi pensiamo che le mascherine chirurgiche siano un primo elemento di prevenzione primaria. E l'OMS, però, diciamo la verità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato sin dall'inizio e finora delle indicazioni che almeno ci sono parse così, a volte un po' contraddittorie, quindi urge capire che cosa è opportuno fare, che cosa è necessario fare per salvaguardare la nostra salute. Diciamo sin dall'inizio di questa pandemia che donne e uomini che costituiscono nel suo complesso il personale sanitario sono i nostri eroi, i nostri salvatori, così come anche naturalmente le forze dell'ordine, coloro che lavorano nei supermercati, e c'è anche chi in questi frangenti inediti, terribili, cerca di indicarci la strada a noi, ai politici, anche perché poi devo prendere le decisioni importanti. Sono dei fari che fanno luce nel tunnel che purtroppo tutti stiamo attraversando. Lo è senza dubbio un faro di luce, l'instancabile professor Fabrizio Pregliasco, che saluto. Professore, bentornato. Buonasera a tutti. È importante parlarne in modo tranquillo, ma come dire, non preciso, perché purtroppo spesso si dicono cose che nei giorni successivi vengono a modificarsi alla luce di conoscenze che si acquisiscono, ma parlarne in modo, io dico, sereno ma attento ai risultati che stiamo ottenendo, una riduzione oggettiva nel numero di casi, ma non siamo ancora arrivati a quella che sarà una soluzione che vedremo solo nel lungo termine. Professore, la sento un po' male, forse colpa del telefono, però ha detto delle cose chiare, infatti è quello anche che cerco di fare tutte le sere, di parlarne con tranquillità, ma naturalmente con chi ha cognizione di causa, come lei, professor Fabrizio Pregliasco, che ricordo eminente virologo presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano. Professore, quindi su questa cosa delle mascherine, servono, non servono, è meglio il distanziamento sociale, fisico? Per esempio Borrelli, capo della Protezione Civile, mi pare venerdì in conferenza stampa, quando era stato annunciato che sarebbero state rese obbligatorie venerdì o sabato, aveva detto ma io non la metterò, poi si è un po' corretto, nel senso dice io mantengo le distanze, quindi mi preservo così. Che cosa è importante fare, professor? Allora, Pregliasco? le mascherine servono quelle chirurgiche, al di là di quelle invece per gli operatori sanitari che devono proteggersi, certo, nelle situazioni a rischio, hanno un oggettivo efficacia, un'oggettiva utilità per evitare che i soggetti malati diffondano la malattia ad altri. Il problema è che l'abbiamo capito, questo virus è molto perfido, si presenta in soggetti che inconsapevolmente sono trasportatori, portatori sani o comunque con piccole manifestazioni cliniche che non gli fanno nemmeno rendere conto di essere a rischio per i propri familiari, per le persone che incontrano. E quindi in questa situazione epidemiologica la mascherina diventa un elemento importante, innanzitutto per evitare che queste persone diffondano in modo eccessivo questi droplets, l'abbiamo capito, no? Cosa sono? Queste goccioline più grosse che emettiamo respirando e soprattutto tossendo e starnutendo quando abbiamo la sintomatologia, ma non solo. Sicuramente rappresentano comunque una barriera per i soggetti ancora suscettibili e riducono la quota di goccioline che possono comunque arrivare. Io ne vedo un'utilità, diciamo, pedagogica, nel senso che indossando le mascherine non dobbiamo abbassare la guardia e dire tanto abbiamo la mascherina, ma invece rendersi conto che ciò che dobbiamo fare adesso è un efficace e continuo distanziamento sociale. È vero che in alcune situazioni lavorative, in momenti casuali, queste distanze sociali, magari anche solo per sbaglio, solo per un incidente casuale di vicinanza, una persona che ci scivola vicino, non riusciamo a mantenere queste distanze, e quindi queste mascherine ci rappresentano un plus di sicurezza psicologica anche in più, ma oggettiva, ovviamente non risolutiva, non di azzeramento del rischio, e quindi devono essere viste così, un po' come la cintura e le bretelle. La cintura è il distanziamento sociale, la bretella che ci garantisce quindi il sostegno dei pantaloni, certo, è questa mascherina. Ecco, lo vedo in quest'ottica, quindi con un'utilità oggettiva, con il fatto ovviamente che non deve essere uno stress, un'agitazione. Il collega del Comitato Tecnico Nazionale pare molto chiaro e molto evidente, molto preciso nell'esplicitare questo elemento diciamo complementare, che vede il distanziamento sociale e il lavaggio frequente delle mani. È una cosa banale, ma lo facciamo male, me ne sono reso conto anch'io quest'oggi prima di pranzare, le ho lavate in modo assolutamente, avevo fretta, le ho lavate in modo non adeguato, ma è normale che succeda così, perché quello che invece dobbiamo affrontare, dovremmo affrontare nel prossimo futuro, quando questa situazione andrà a migliorare ma non ad azzerarsi, dovremo fare i conti con questo virus, e quindi dobbiamo abituarci a una ripresa della nostra vita che per forza di cose dovrà avvenire. Non possiamo bloccare il mondo fino a un azzeramento certo, lo verrà riaperto con giudizio, io credo, anche rispetto al piano di riapertura che si sta definendo, che verrà comunicato, io credo, spero presto, ma dovrà portare a questa grande attenzione ad alcuni comportamenti che davamo per scontati, no? Una vicinanza eccessiva, di una velocità nei viaggi, negli incontri, nei contatti, e tutto questo non potremo riprenderlo tout court alla riapertura, quindi tutti al mare a fare ciò che abbiamo agognato e stiamo agognando in questi momenti di difficoltà oggi. Niente mare quest'estate, professor Pregliasco? Speriamo, ma vedremo come. È chiaro che non è facile fare previsioni sul lungo periodo. I meteorologi, che hanno tante modalità di misurazioni, di indicatori, sono precisissimi nell'arco di 1, 2, 3 giorni, ma poi quando si parla di mesi hanno difficoltà pure loro, noi ancora di più, perché abbiamo pochi elementi di un virus nuovo che ogni tanto ci fa scoprire cose poco piacevoli, come l'importanza degli asintomatici nella diffusione della malattia, che quindi in qualche modo... Mi dica una cosa, professor Pregliasco, mi scusi, ma quando si dice asintomatici si intendono anche persone, che non mostrano sintomi visibili ma che sono malate, che quindi avranno per forza un decorso della malattia, oppure che non l'avranno mai questo decorso, non staranno mai male ma sono portatori sani, ecco, come si dice per esempio per l'epatite o per altre cose? Esatto, questa è un po' la fregatura, se mi concedete questo modo di dire, ma di questa patologia, che rispetto alla SARS, che si caratterizzava per una gravità maggiore, per una mortalità maggiore, ma per semplicemente una contagiosità nella fase di malattia, quindi è stato possibile controllarla. Quindi SARS-CoV-1 era un po' più sciocco, questo è molto più perfido, perché le manifestazioni cliniche che causa nelle persone sono variegate. Sappiamo la tristezza di una quota parte di persone con la polmonite virale primaria, che è l'effetto addirittura di un eccesso di risposta di questi soggetti all'infezione, che però poi paradossalmente si ritorce contro la capacità di respirazione, e quindi tutto quello che tristemente sappiamo, e invece poi una congerie di patologie le più diverse possibili. Sono persone che hanno solo un po' di anosmia, di mancanza di gusto, di sensibilità agli odori come manifestazione, magari un po' di febbricola che però sfugge all'evidenza o praticamente nulla. Sicuramente chi è sintomatico dal punto di vista proprio clinico è il soggetto più a rischio, perché emettendo queste goccioline respiratorie, sparandole nell'ambito, insomma, è più contagioso, ma da quanto si capisce in questi mesi, in questi periodi, anche l'asintomatico o quello che ha una sintomatologia più banale, seppur con meno efficacia, ci risulta, insomma, essere comunque un soggetto a rischio, in particolare in chi è nella fase di incubazione, cioè negli ultimi 2 o 3 giorni dall'infezione a quella che è l'evidenza clinica della malattia, un classico di tutte le malattie infettive. Professore, una domanda che fanno molti, no? Il fumo delle sigarette espulso da un potenziale positivo può trasmettere il virus a una persona che si trova nei pressi? Spesso quando si vede qualcuno fumare adesso si scappa, non so perché il fumo fa male in sé per sé, ma insomma. Il fumo fa male, quindi ecco, ben venga questa chiaro. Cosa di dire meglio non fumare, ecco. Questo va bene, ed è anche un elemento di aumento del rischio di complicanze, quindi questo ci sta. Però su questo direi che elementi non ci sono sostanziali rispetto a questo rischio, proprio perché sono le goccioline respiratorie più grosse, quelle che abbiamo ormai scoperto nel slang, nel nome inglese, droplets, sono quelle che contengono la maggiore quantità di virus rispetto a quelle più piccole che noi comunque mettiamo. E anche qui bisogna ricordare, uno studio recente dice anche quelle più piccole possono in ambienti chiusi, in particolare se aspiriamo con dei pazienti ammalati e dobbiamo quindi produrre noi stessi aerosol, possiamo creare un rischio aumentato. Tutto questo evidenzia quindi il rischio professionale e i contesti ambientali, però si è visto che una buona ventilazione in un ambiente chiuso, questa parte più complessa da gestire, in qualche modo diventa meno rilevante. Meno male. Professor Pregliasco, per chiudere, dice un ascoltatore, quindi in sintesi è meglio se la mascherina la porto rispetto a tutto il discorso che si faceva prima. Lei diceva giustamente, ci vuole distanziamento sociale, bisogna lavarsi le mani, tutte le misure igieniche eccetera, se si ha in più la mascherina, come lei diceva, sono come le bretelle rispetto alla cintura, non sono quelle fondamentali ma ti aiutano a tenere su i pantaloni, giusto per chiudere, professore? Assolutamente, direi in questo senso, quindi ci danno un elemento, ma non deve essere anzi una gestione di dire tanto la mascherina, anzi ho la mascherina perché devo stare più attento e quindi mi ricordo in ogni istante il fastidio che portare la mascherina tutto sommato ci causa, ma che ci dà la percezione ogni momento di fare delle cose giuste. Grazie professor Fabrizio Pregliasco, grazie mille e buona continuazione, la sua instancabilità. Qui ci dobbiamo fermare, giusto per la solita pausa, voi continuate con i vostri messaggi, commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, numero per SMS e WhatsApp, torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, sin dall'inizio della settimana siete al posto giusto, nel momento giusto, non solo nell'ascoltare Effetto Notte, ma nell'essere lì a casa o al massimo, per qualcuno che ha dei turni particolari, al lavoro, ma solo per alcune rare eccezioni. E Roberta Giordano sempre con voi a tenervi compagnia, a rimanere qui come presidio costante per darvi tutta l'informazione possibile, in modo esauriente e chiaro, di fine giornata dall'Italia e dall'estero. Per lo più, purtroppo, molto concentrata naturalmente su questa pandemia che sta stravolgendo la vita di tutti noi, in particolare di alcuni, delle famiglie che hanno purtroppo avuto parenti che sono morti, di cari che sono rimasti vittime di questa maledetta pandemia. Passando alle misure del governo, vi dicevo dall'inizio che sono stati varati due decreti molto importanti oggi. Uno che riguarda la scuola, come finire l'anno scolastico. Arrivati a questo punto, ne parleremo dopo con un altro ospite. Invece adesso ci concentriamo sulle misure del governo per affrontare l'impatto economico. In Consiglio dei Ministri è stata raggiunta l'intesa sul cosiddetto decreto liquidità, il provvedimento che dà sostegno economico alle imprese, per l'appunto la liquidità e i soldi, che stanzia 750 miliardi di euro, circa 400 miliardi in più rispetto ai 350 già previsti dal decreto Cura Italia. L'intesa è stata trovata dal governo appunto dopo un lungo Consiglio dei Ministri, naturalmente per delle misure piuttosto articolate, che adesso ci racconta il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Caro Alberto. Buonasera a tutti. Allora, intanto farei sentire alcuni passaggi di Conte della conferenza stampa che è finita poco dopo le 21. Intanto Conte che parla di 1.400 miliardi. Sentiamo. Con il decreto appena approvato diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, che siano piccole, medie, grandi. 200 miliardi per il mercato interno, finanziamento del mercato interno, altri 200 miliardi per potenziare il mercato dell'export. È una potenza di fuoco. Io non ricordo effettivamente un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica a favore per il finanziamento delle imprese. Quindi addirittura ha parlato di un intervento come potenza di fuoco, ha detto Conte, inedita, mai successa una cosa di questo tipo con queste misure così consistenti messe in campo, Alberto. Sì, sono 400 miliardi messi in campo per le imprese piccole, medie e grandi, che si aggiungono ai 350 già stanziati nel decreto precedente. Non sono denari diretti, ma sono garanzie dello Stato su prestiti che deve erogare il sistema bancario. Sono garanzie diversamente articolate, perché per esempio per le partite IVA e per le piccole imprese artigiane con meno di 5 addetti ci sono prestiti fino a 25.000 euro garantiti totalmente al 100% dallo Stato, che non hanno bisogno neanche di istruttoria bancaria. Uno va a far vedere che è una partita IVA e probabilmente la banca di riferimento glielo eroga immediatamente. È più complicato per quelli più grandi, diciamo così. C'è una modalità per esempio di prestito fino a 800.000 euro coperto al 90% da garanzie statali ad opera della SACE, che possono essere per esempio completate dall'altro 10% mancante da parte della gestione dei confidi, e quindi anche in questo caso diventano coperture al 100% del prestito, ripeto, fino a 800.000 euro. Però sono poi soldi, Alberto, che poi devono nel tempo restituire le imprese. Sì, certo, si tratta di prestiti a tassi, chiaramente il mondo di adesso possono essere molto molto bassi da negoziare, e vanno restituiti con tranche allungate parecchio nel tempo, e sono di diverse modalità, perché normalmente lo standard di questa operazione di oggi sono prestiti fino al 90% con garanzia fino al 90% da parte della SACE, e che possono essere pari al 25% del fatturato dell'impresa che lo chiede, quindi una cosa articolata, o eventualmente al doppio del costo del lavoro che l'impresa paga annualmente per i propri dipendenti. Questi sono i target per definire le somme in gioco. È diviso in due, abbiamo visto 200 miliardi per chi opera nel fronte interno, cioè quindi utilizza mercato domestico, sostanzialmente domanda nazionale, e 200 miliardi invece destinati alle imprese che hanno alta vocazione esportativa, e che probabilmente sono anche più grandi di quelle piccole che normalmente invece operano solo sul territorio nazionale. Questa è la modalità, chiaramente è un grossissimo onere che finisce sulle spalle delle banche, evidentemente, che dovranno poi gestire formalmente e direttamente con i singoli clienti questa partita, che non è così scontata come può sembrare dagli annunci. Chiaramente quando vai davanti a una banca, anche con la garanzia pubblica, comunque l'istruttoria per l'erogazione del prestito viene fatta, anche perché è auspicabile che queste cose non finiscano, per esempio, che so, alla Totorina SRL. Ecco, mi sembra evidente che questo tipo di operazioni ha comunque bisogno di un controllo e di un filtro, e quindi non sarà proprio una cosa così automatica che uno va allo sportello e due ore dopo torna a casa con il malloppo. Chiaramente ci sarà un tempo per le istruttorie, c'è anche una necessità di avere un nulla osta europeo, perché per le pezzature più grandi si tratta comunque di avere il nulla osta europeo perché non siano aiuti di Stato. Un po' di burocrazia purtroppo ci sarà, quindi ci vorrà un po' di pazienza. Poi una cosa importante, fra le tante che ha detto Conte, ha parlato anche della Golden Power per evitare le scalate, no? Cioè della possibilità dello Stato di intervenire per evitare che ci siano delle scalate da parte di altri stati rispetto a delle nostre aziende strategiche, oppure no, insomma, che lo Stato tiene a mantenere italiane, no? Eh beh, certamente, anche perché purtroppo con questi corsi di borsa, con lo shock che c'era stato subito all'annuncio potrebbero essere comprate per 5 potevano essere comprate per pochi spiccioli, e quindi è evidente che alcuni fondi che fanno quello di mestiere non vedevano l'ora di fare uno sciame speculativo sui nostri Mambassa. Senti, è evidente che questo è un muro che mettono anche gli altri paesi. È stato molto esteso nei settori perché comprende quasi tutto praticamente. Sentiamo come ha concluso, diciamo, Conte a proposito della speranza che ci sarà una nuova primavera. Agli italiani tutti che ci ascoltano voglio dire: state dando un contributo fondamentale in questa battaglia al virus. Presto, sono assolutamente fiducioso, raccoglieremo i frutti di questi nostri sacrifici. Quando sarà tutto superato, tutto finito, ci sarà una nuova primavera, la vivremo tutti insieme per l'Italia. Ecco, aspettando questa nuova primavera, che non è questa che già è in corso, perché insomma della primavera ha poco, tranne i fiori che vediamo fuori dalla finestra e nei giardini, Alberto. E siamo in attesa anche domani dell'Eurogruppo, di capire se effettivamente queste misure che l'Italia, che la Francia, che la Spagna ed altri stati chiedono di solidarietà nel contesto dell'Unione Europea ci sarà un accordo oppure no. Perché oggi anche la Merkel ha detto che è un momento epocale, insomma, una cosa che ci mette di fronte a qualcosa di assolutamente inedito, inaspettato nella nostra storia. E la Francia stessa, no? Mi pare che piuttosto certo. Muso duro abbia detto: o ci saranno questi euro bond, questo fondo solidale dell'Unione Europea, oppure noi non ci stiamo, no? Su nessun tipo di accordo. Sì, è importante che la Merkel abbia detto oggi che la Germania è forte se l'Europa è forte. Infatti, questo sì. È stata una cosa importante. Qualcosa si sta scongelando, ancora le parti in atto, in gioco, sono arroccate sulle proprie posizioni negoziali, però indubbiamente si sta profilando una strategia su tre punti. Da una parte un utilizzo eventuale del MES, della sua potenza di fuoco, che per la verità poi non è neanche così ampia, sono 410 miliardi da dividere tra i vari stati, però sottoposta a una condizionalità leggera, cosiddetta, una specie di memorandum pro forma in cui uno dichiari che ne ha bisogno perché c'è il coronavirus e poco altro, e non come era una volta che invece si costringeva a riforme alla troica, eccetera. L'altro un'emissione da parte della BEI, Banca Europea degli Investimenti, che ha una potenza di fuoco che potrebbe essere di molto aumentata con un aumento di capitale, e non bisogna dimenticare, la BEI decide al suo interno a maggioranza, non all'unanimità come invece l'organismo del MES, quindi più comodo da gestire anche politicamente, e un nuovo fondo da ricavare all'interno del nuovo budget europeo sul quale sta lavorando Ursula von der Leyen, che vuole modificare il meccanismo di messa a punto del bilancio europeo, ampliandone i confini, modificando le poste interne, recuperando risorse per creare una nuova centrale di emissione diretta da parte dell'Unione. E domani vediamo quale di queste misure. Grazie Alberto Rioli. Ciao. Grazie, caro Alberto. Buona serata. Buon lavoro. C'è la viabilità, poi dobbiamo parlare di scuola. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi. Vedo una notizia terribile che sta arrivando in questi istanti a New York. New York pensa a fosse comuni nei parchi pubblici. Io non avrei mai pensato di leggere una cosa di questo tipo in una città poi come New York, nel paese più sviluppato del mondo, nel paese che sembra il traino, insomma, globale. Comunque, parliamo con il professor Mario Rusconi, che saluto. Professore, buonasera. Buonasera a tutti voi. Presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi del Lazio, abbiamo parlato adesso del decreto liquidità, parliamo invece del decreto scuola. Vi ho fatto sentire anche un passaggio della ministra Azzolina. Insomma, questo decreto legge prevede, contiene misure per la fine dell'anno scolastico e prevede essenzialmente che se non si tornasse a scuola entro il 18 maggio, cosa che ormai è probabile che non si torni, esami di maturità online con la sola prova orale, tutti ammessi comunque con una commissione interna, e poi per la terza media niente esame, solo una tesina da valutare insieme ai voti dell'anno scolastico. Che ne pensa, Preside Rusconi? Ma guardi, le ipotesi fatte dal governo sono due: quella ottimistica che si possa tornare a scuola il 18 maggio, ma nessuno ci crede probabilmente. Già. La seconda ipotesi, quello che diceva lei, prevede appunto che i ragazzi di terza media affrontino un esame con una semplice tesina, i ragazzi invece della maturità affronteranno l'esame con un orale, anche in via telematica se necessario, però la garanzia in questo caso, che si tratterà di un esame a mio parere serio, è che ci saranno sei insegnanti e della commissione, che sono gli insegnanti del consiglio di classe che hanno avuto questi ragazzi dai 3 ai 5 anni, poi c'è un presidente esterno che funge, diciamo così, da notaio. Quindi il fatto di avere una commissione interna dà la garanzia che si tratta di una valutazione che sarà fatta sulla base di una conoscenza dei ragazzi, delle loro capacità, delle loro competenze, ben appoggiata su dati reali, perché gli insegnanti, ripeto, l'hanno avuti dai 3 ai 5 anni. Certo, presidente Rusconi, mi scusi. Scusi, l'Istat tra l'altro faceva in un rapporto, uno spaccato della didattica a distanza, diceva che un terzo delle famiglie non ha un PC o un tablet, peggio ancora la situazione al sud. E sentiamo la ministra Azzolina, oggi, poco fa, insomma, quando ha parlato del decreto scuola a proposito della didattica a distanza. La didattica a distanza non può essere assolutamente considerata uno strumento opzionale in un momento d'emergenza come quello che stiamo vivendo. La didattica a distanza ci sta permettendo di concludere l'anno scolastico e quindi non renderla più opzionale, ma una chiave di volta per il nostro sistema educativo del momento, significa dare dignità a tutti gli insegnanti che hanno fatto tantissimo in queste settimane e agli studenti, dignità a tutto il loro lavoro. Quindi li incito a lavorare ancora di più nei 2 mesi che resteranno da qui alla fine dell'anno scolastico. Quindi ragazzi, senza poltrire, senza approfittare, mi raccomando, perché poi dopo, se no, queste lacune andranno recuperate prossimamente. Però per chiudere, Preside Rusconi, quindi didattica a distanza, però con un terzo delle famiglie che non ha un PC o un tablet, bisognerà pensare per settembre di naturalmente fornire a queste famiglie gli strumenti necessari, perché non è escluso che un po' di didattica a distanza poi possa continuare, no? Sì, ma questo si sta già facendo, cioè il governo ha fatto già degli investimenti, i soldi sono già arrivati alle scuole proprio per acquistare dei PC, dei device vari, fermo restando che non saranno ancora sufficienti, però noi sappiamo per esempio di molte aziende che con molta generosità professionale stanno fornendo gratuitamente i computer, anche giornalisti e così via, cioè si sta anche attivando un momento di generosità che secondo me può contraddistinguere bene questo periodo. Certo, noi sapevamo i dati della lentezza dell'Italia di mettersi a confronto in Europa, di mettersi al passo dell'Europa dal punto di vista del digitale, però mentre precedentemente erano solo delle statistiche che sembravano quasi neutre, adesso ci accorgiamo di questo gap che abbiamo e che dobbiamo assolutamente cercare di colmare, anche perché non è detto che a settembre si possa tornare a scuola, lo dico non per fare la Cassandra, perché tenendo presente che la scuola significano 9 milioni di persone fra studenti, professori, bidelli, presidi e impiegati, come fare a mantenere le distanze di sicurezza in classi pollaio, come vengono definite, in cui in un banco biposto ci sono 2 ragazzi che hanno una distanza tra di loro di 5 centimetri, risulta molto difficile. Infatti l'appello che abbiamo fatto come associazione presi è anche quello: cominciamo a pensare, chiaramente ci rivolgiamo al governo, alle mascherine, perché 8 milioni di mascherine, 9 milioni di mascherine ogni giorno alla sanificazione. Il governo ha tirato fuori dei soldi che stanno già arrivando alle scuole, ma cominciamo anche a pensare come fare a tenere ragazzi, specialmente i bambini piccoli, scuola dell'infanzia e scuola elementare, in spazi così stretti. Cioè stiamo scontando una serie di nequizie, diciamo così, perché gli enti locali sono i proprietari, non è il Ministero dell'Istruzione, sono i comuni e le province, che però magari spesso si sono fatti distrarre da altre attenzioni. Certo, quindi Presidente Rusconi, anche questo diciamo fa parte del dopo, di cosa succederà dopo proprio questo, la crisi più stringente, insomma, anche per quanto e soprattutto anche per quanto riguarda la scuola. Grazie Preside Mario Rusconi, grazie come sempre. Grazie a voi tutti. E buona continuazione. Dario Ricci invece ci parla del subbugli nel mondo dello sport e del calcio in particolare. Dario? Beh sì, perché siamo sulle barricate tra Assocalciatori e Lega di Serie A. Lega che oggi ha svolto la sua assemblea straordinaria e che ha trovato un punto d'incontro tra tutti i club sul taglio degli ingaggi dei calciatori, intervento che prevede una riduzione di un terzo della retribuzione totale annua lorda se non si riprenderà l'attività e di un sesto se nei prossimi mesi si completerà la stagione. I club, poi ha chiarito la Lega, definiranno gli accordi con i tesserati che però hanno definito la proposta irricevibile e vergognosa, quindi l'Assocalciatori fa le barricate rispetto a quelle che erano state le trattative fino ad ora, quindi se i club hanno una posizione unitaria altrettanto compatta è l'Assocalciatori a dire di no, e quindi bisognerà trovare un nuovo punto d'incontro. Mentre invece un punto d'incontro, e vado a chiudere Roberto, è stato trovato importante per quanto riguarda i contributi ai collaboratori sportivi che erano rimasti esclusi, no, dalla versione iniziale del Cura Italia. Da domani sul sito della Sport e Salute dalle ore 14 sarà possibile fare richiesta per i 600 euro. Cosa si intende per collaboratori sportivi? Beh, Dario, diciamo i tanti insegnanti di fitness, di palestre, che in questi giorni ci stanno aiutando anche via social a mantenerci anche un po' in forma. Ebbene, molti di loro hanno in questo la loro primaria attività. Staremo a vedere se riusciranno ad accedere a questi 600 euro, perché ci sono delle limitazioni come 10.000 euro di reddito annui, che chiaramente rendono questa platea particolarmente stretta, quindi già ci sono un po' di polemiche, ma intanto c'è questo primo stanziamento di 50 milioni di euro. Grazie Dario Ricci. Grazie a te. Ciao caro Dario. In attesa di vincere ci sentiamo alle 22.